oggi amico di corsa, sta tremando la terra, fuggi sopra quel monte, fuggi in fondo alla valle, su paesaggi distesi, su solenni silenzi, dietro squarci di luce che ci insegna la strada, sospesi noi, coi nostri corpi, a risolvere l'arcano di questo esser vita, ad intrecciarsi tra due lame mobili. Nel calore di un secondo che vale quanto un secolo, fuggi sotto la pioggia che sta ancora scendendo, ma non serve affrontare il deserto di fuoco, mentre il cielo e la terra sembrano essere uniti, acqua e aria abbracciati, un orribile gioco, sospesi noi, coi nostri corpi, mentre scende un brivido nei visceri del cuore che sta pulsando tra le labbra, nell'attesa del secondo che dura tutto un secolo, se tu nel freddo mi resti accanto, non ricorderai neanche un solo istante di ieri, coi suoi tormenti, se nella tempesta fuggi immobile in tutte le battaglie che fai. Fuggi tra le macerie, mentre un gioco di ombre sta assemblando un mosaico con i tuoi baci scordati, sospesi noi su questo sfondo, a risolvere l'arcano del nostro esser vita, ad intrecciarci tra due schegge mobili. Anche solo per un secondo, che valga quanto un secolo, se tu nel freddo mi resti accanto, non ricorderai neanche un solo istante di ieri, coi suoi tormenti, se nella tempesta fuggi immobile in tutte le battaglie che fai. Se tu nel freddo mi resti accanto, non ricorderai neanche un solo istante di ieri, coi suoi tormenti,